vedere noi un po' più in là, oltre il confine di realtà. Ma se non so com'è che va, insegnami come si fa. Se a volte pensi un poco a me, se a volte hai mille perché, di notte spegni il mondo ma non spegnermi solo realtà. Mancherà, mancherà quel giorno in più che non c'è stato tra di noi. Non sei, non sei, tu non sei più qua, ma viaggi dentro l'anima. Aspetti dentro al cuore mio, ti cerco e so solo io che piangerò, ma sentirò la voglia di sognarti un po'. Non serve mai strappare via le pagine della vita mia, mi basterà voltarle per ricominciare a vivere. Se a volte vivo di fantasia, ogni tua notte sarà mia. Rischiare di pentirsene, rischiare di soffrire. Passerà, passerà la notte in cui rimango sveglio e penso a noi. Non sei, non sei, tu non sei più qua, mi resti appesa all'anima. Aspetti dentro il cuore mio, ti cerco e so solo io che piangerò, ma sentirò la voglia di sognarti un po'. Aspetti e non so più il perché, un ritornello facile non serve, no, ma sentirò la voglia di cantartelo. Aspetti dentro al cuore mio, ti cerco e so solo io che piangerò, ma sentirò la voglia di sognarti un po'. Io piangerò, ma sentirò la voglia di sognarti un po'. Non serve, no, ma sentirò la voglia di cantartelo. Ma sentirò, io sentirò la voglia di sognarti un po'.